Già stamattina la mia è stata volutamente, ovviamente una visione, sarà una visione parziale e partigiana di quanto è successo ieri sera, poi a essere più precisi, perché appunto era convocata questa pagliacciata, fammela chiamare col suo giusto nome, da parte di Forza Nuova che in maniera strumentale e elettorale, perché questa è l'aria che si sente, ha convocato questa manifestazione contro il degrado di quell'area di Roma, che appunto è l'area est, l'area della Rustica, per essere più Tor Sapienza, quella 40 lì della città, attribuendo tutto il degrado che può magari anche esserci alla presenza di due campi rom, che tra l'altro sono due campi molto antichi come insediamento, perché risalgono almeno 20 anni fa. E i due campi in questione sono il campo di Salviati 70 e Salviati 72, la denominazione viene ovviamente dai due numeri civici, e ci sono, sono due campi perché uno ospita dei rom serbi e l'altro campo, il 72, ospita invece dei rom di provenienza bosniaca, cosiddetti coreganè. Dicevo della mia visione parziale e partigiana perché sono stato contattato da alcuni amici rom, perché ho la fortuna, diciamo così, di avere un rapporto anche di prossimità con alcuni di loro, perché erano stati molto allarmati dalle notizie che gli erano arrivate in parte da persone come me che li avevano già avvisati di questa manifestazione. In realtà verso le 7 sono stati allertati dall'arrivo di un nutrito contingente di polizia, polizia sia in borghese che in divisa, che gli hanno detto state attenti perché c'è questa manifestazione. Dicevo di questa visione partigiana perché io in realtà mi sono abbastanza disinteressato della manifestazione, sono andato direttamente al campo, andando con lo scooter verso i due campi. Quello che ho potuto vedere è che in realtà la manifestazione, che non era per niente partecipata, da lontano io ho potuto vedere un assembramento di massimo 100-150 persone, a dire veramente tanto. Poi tra l'altro, visto da lontano, non è facile dire se fossero solo manifestanti o ci fosse anche polizia, magari in borghese, a ingrossarne le fila da un punto di vista visivo. Fatto sta che io però, appunto, a parte questa velocissima visione di questa gente, quello che ho potuto vedere invece è stato l'interno dei due campi, e devo dire che l'atmosfera è stata emotivamente molto impressionante, perché comunque c'era, si avvertiva proprio questa sensazione di essere circondati. Chi frequenta i campi rom sarà d'accordo nel dire che questa atmosfera di essere circondato di accerchiamento ce l'hai sempre, in situazioni frangenti come quello di ieri ancora di più. La scena a cui ho assistito era un campo brulicante con fuochi accesi messi vicino alle vie di passaggio e vicini alle varie recinzioni, come siamo abituati a vedere in film, che so, tipo Il Signore degli Anelli. Ora la situazione magari è un po' a sproposito, però la sensazione era proprio questa: c'era un attacco imminente di cui tra l'altro agli abitanti soprattutto fuggivano le ragioni. Le considerazioni che venivano fatte erano di due ordini, anche se poi non è assolutamente il mio costume parlare al posto dei rom, io la riporto solo come tra virgolette cronista. La prima considerazione che veniva fatta è: ma si sono accorti adesso? La seconda considerazione era noi per primi diciamo che questo è un quartiere di merda, cito testualmente, e dopodiché siamo d'accordo anche sul fatto che alcune situazioni legate al campo possono essere pesanti. Il riferimento fondamentalmente alla nota questione dei fumi che vengono fatti nel bruciare la plastica per ricavare il rame dai cavi elettrici. Dopodiché fare una manifestazione il cui scopo, basta vedere la pagina Facebook, il cui scopo era quello di smantellare il campo, è una cosa che agghiacciava abbastanza gli abitanti. Cito un piccolo episodio, una cosa molto divertente che poi vi dà la dimensione di come sia assolutamente fuori dal tempo la manifestazione di ieri. È stato che queste considerazioni le ho fatte con un paio di adulti del campo, con una ragazza di 17 anni, e abbiamo fatto queste considerazioni all'interno della baracca guardando la pagina Facebook di Forza Nuova sul computer di una ragazza che tra l'altro va a scuola e che oggi non sarebbe andata perché comunque a 1:30 di notte era ancora sveglia, e pensare appunto che c'è una sensibilità a ciò che accade all'esterno, all'interno dei campi, mi fa venire in mente che insomma probabilmente chi sta dentro i campi rispetto a questa gente come quelli che hanno convocato ieri la manifestazione sta decisamente avanti. Quindi in realtà una pagina quotidiana di quello che è il degrado, sì, ma di una parte di città che sicuramente non è quella dei campi, ma un degrado mentale più che altro. Senti, c'hai descritto un po' quello che era l'ambiente nella serata, insomma quello che si respirava all'indomani, insomma vista anche diciamo il sostanziale fallimento dell'iniziativa, che cosa si può pensare, anche considerando che, come pure dicevate voi stamattina, siamo già in campagna elettorale in realtà per le elezioni comunali della nostra città, ed è lecito supporre che qualcuno ritornerà su questi temi nei prossimi mesi. Guarda, velocemente, rispetto alla reazione degli abitanti di quel campo, di quei due campi, ti dico che essendo oggi l'antivigilia del San Giorgio Giurgeran, che è la festa internazionale di tutto il popolo rom, in realtà per fortuna, parlando con un paio di persone telefonicamente oggi, persone del campo, l'atmosfera era quella di una sana leggerezza, no? Anche perché stando dentro i campi, ahimè, si fa l'abitudine a climi del genere. La considerazione mia è il fatto che sicuramente questo è soltanto l'inizio di una strumentalizzazione in chiave elettorale e populista. Del resto, come dire, siamo in una città in cui il sindaco una campagna elettorale l'ha vinta proprio su questo, salvo poi allacciare un rapporto assolutamente anche questo strumentale con il popolo rom, forte della posizione di potere che ha. Per cui questa però, ripeto, è una considerazione mia. Quello di ieri, anche se assolutamente fallimentare, credo che sia, ahimè, il primo episodio di quella che rischia di essere un'escalation. Del resto i rom sono assolutamente il capo espiatorio per eccellenza, per cui temo e credo che la manifestazione di ieri, per quanto appunto conclamiamo il fatto che è stato un assoluto fallimento, credo che sarà soltanto il primo episodio di una lunga serie.